Sabato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. The future is not a gift, it's an achievement. Avete capito, care ascoltatrici, cari ascoltatori, questo impeccabile inglese Renzi, lì al cospetto di Obama, dice: il futuro non è un regalo, è una conquista. È una citazione di Bob Kennedy. Vogliamo sentire anche la versione più americana di Obama? As Robert Kennedy told us, the future is not a gift, it is an achievement. Vabbè, più o meno, siamo lì. Parleremo naturalmente del vertice negli Stati Uniti, alla Casa Bianca, tra Renzi e il presidente Obama. Ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti e poi ovviamente torneremo invece in casa nostra a fare un punto sulla politica di questa settimana, che è piena di cose, dal caos in Puglia per le regionali all'Italicum, le spaccature dentro il PD e poi questa questione del Senato. Pare che Renzi, poi capiamo se sono indiscrezioni, se sono solo boutade, pare che Renzi abbia detto: beh, in realtà io non sarei contrario al Senato elettivo, come avevi detto finora che ci deve essere la riforma del Senato, che non ci deve essere più bipolarismo, che ci deve essere non il bicameralismo perfetto, ma che il Senato deve essere soltanto composto da rappresentanti delle regioni e dei comuni. Invece pare che abbia detto che sarebbe non contrario di nuovo al Senato elettivo. Quindi bisogna capire bene in che direzione vanno queste riforme e poi anche perché l'ha detto qualche maligno, dice che forse diventa una specie di possibilità di merce di scambio con una mediazione sull'Italicum per quanto riguarda la minoranza del PD, che sapete che vuole assolutamente delle modifiche sulla riforma elettorale. Insomma, cercheremo di capire un po' di cose facendo il punto appunto sulla politica. Ci sarà il meteo ovviamente, perché pare che nel fine settimana uno lo aspetta agognando di liberarsi finalmente il fine settimana. Non ci sarà bel tempo, almeno al nord, al centro nord. Scopriremo tutto man mano, così come adesso vi snocciolo le notizie più importanti della giornata. E se volete, fra queste, fra quello che vi ho citato, potreste questa sera, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia attraverso gli SMS al 349-238-6666, dire cosa ne pensate voi eventualmente di una marcia indietro sul Senato elettivo. Preferite il Senato elettivo, così come è stato più o meno finora, anche se magari non sarà esattamente uguale, oppure quello che doveva far parte di questa serie di riforme, cioè un Senato composto da rappresentanti territoriali, consiglieri regionali, sindaci, eccetera. 349-238-6666 oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Il vertice Renzi-Obama e Stati Uniti sono un modello per la crescita, dice il Presidente del Consiglio, e c'è condivisione su Libia e Iran. Grecia, la notizia che ormai quasi senza liquidità, il paese spaventa i mercati, risale lo spread. Riforme, l'Italicum non si cambia, ribadisce Renzi, ma sul Senato nuovamente elettivo si dice possibilista. L'uomo in fuga col figlio neonato è stato ritrovato in Spagna, entrambi stanno bene, dopo l'interrogatorio è stato arrestato per sottrazione di minore. Accordo Fiat Chrysler sindacati sul nuovo sistema retributivo con premi, ma la FIOM non ci sta e dice una finta partecipazione. Libia, la Marina sventa un tentato sequestro di un peschereccio di Mazara del Vallo. Roma, per gli scioperi, i passeggeri esasperati occupano i vagoni della metro, la situazione si fa incandescente, intervengono le forze dell'ordine. Partiamo quindi dal vertice di oggi tra il Presidente del Consiglio Renzi e il Presidente americano Obama. Li avete sentiti all'inizio della conferenza stampa congiunta tenuta alla Casa Bianca al termine del loro faccia a faccia. Obama ha subito reso omaggio al nostro paese, ha detto: l'Italia è ovviamente uno dei nostri alleati più vicini e forti, questa è l'occasione per celebrare i nostri rapporti. Poi complimenti anche al Presidente del Consiglio italiano, ha detto: Renzi ha portato molta energia e senso di visione, vuole vedere una crescita nel suo paese, sono impressionato, I'm impressed, dall'energia per le riforme che ha portato avanti e dalla volontà di sfidare lo status quo, così ha detto Obama. Renzi da parte sua ha detto che l'America costituisce il modello di crescita. Ritengo che l'esperienza del governo degli Stati Uniti sia un modello per l'economia europea e che dobbiamo stare molto attenti al budget, ai limiti, agli impegni che ci siamo presi, ma occorre anche una nuova stagione di crescita e di investimenti. Nel 2014 abbiamo iniziato con le prime misure, ma ancora c'è molto da fare e la leadership americana è un punto di riferimento. Poi per gli altri dettagli vi dicevo ci colleghiamo con gli Stati Uniti tra poco. Invece adesso andiamo sulla Grecia, che nel frattempo è tornata a preoccupare i mercati. I soldi arriveranno solo una volta trovata la quadra sulle riforme, ma l'intesa non c'è e le prossime scadenze fanno paura, a partire dal 1 miliardo di euro da rimborsare a maggio al Fondo Monetario Internazionale. Secondo Reuters, nelle casse di Atene ci sono solo 2 miliardi che servono per pagare stipendi e pensioni a fine mese. Quindi, senza i 7 miliardi di euro di aiuti, le scadenze non saranno onorate. Ma davvero potrebbe esserci un default o un'uscita della Grecia dall'euro? Si chiedono i mercati. Una cosa è certa, Tsipras non vuole l'austerity. Per il commissario europeo Moscovici non c'è un piano B. I greci devono fare le riforme. Per l'FMI serve un accordo, mentre la Merkel starebbe studiando tutte le possibilità per mantenere il paese nell'area euro. Così la volatilità aumenta e le borse scendono. Milano ha perso oltre il 2% e lo spread è schizzato a quota 146 punti. Intanto Varoufakis ha visto Draghi, che vorrebbe una soluzione per aiutare la Grecia, ha detto il ministro. Da domani tutti di nuovo al lavoro a Bruxelles. Il 24 aprile ci sarà l'Eurogruppo e nello stesso giorno finirà la liquidità di Atene. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo così alla politica italiana. Al suo rientro dall'America, Renzi troverà ad attenderlo, dicevo, questa ingarbugliata vicenda delle riforme istituzionali tra Italicum e Senato che agitano il suo partito. Uno spiraglio si apre ma non è sull'Italicum, Matteo Renzi lo dice chiaro da Washington. C'è chi vorrebbe ripartire da zero, le riforme però hanno preso una strada che non ha possibilità di essere bloccata. Il Premier è disposto a rivedere la riforma costituzionale e quella sul Senato elettivo, anche se preferisce non parlare di scambio con la minoranza Dem. Si apre la possibilità di un confronto parlamentare di merito sulle competenze dei nuovi senatori, mentre la legge elettorale va approvata così com'è. Troppo rischioso passare per il voto segreto, vale la linea dell'Assemblea di gruppo. Dalla minoranza Dem si chiede però a Renzi di scoprire le carte sul Senato che i bersaniani chiedono sia elettivo. Nel centrodestra invece nuova rivelazione del pentito messinese Carmelo D'Amico al processo Stato Mafia. Angelino Alfano sostiene D'Amico fu eletto con i voti di Cosa Nostra. Poi le ha voltato le spalle. Forza Italia è stata voluta dai servizi. Rina e Provenzano per governare l'Italia. Silvio Berlusconi era una pedina di Marcello Dell'Utri. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma. E poi ci occuperemo anche di queste rivelazioni, questo pentito, bisogna vedere quanto attendibile, però insomma sicuramente scuotono un po', ce ne occuperemo dopo qui Effetto Notte. Adesso parliamo di immigrazione, poiché resta forte la pressione degli sbarchi sulle coste italiane. Hanno trascorso la notte in carcere a Palermo i 15 migranti arrestati con l'accusa di aver ucciso, gettandoli in mare durante la traversata dalla Libia, 12 compagni di viaggio al culmine di una rissa. Sul fatto che sia stata scatenata da motivi religiosi, musulmani contro cristiani, è molto cauta Carlotta Sami, portavoce UNHCR. Abbiamo immediatamente parlato con loro. Ci vuole cautela, non era in atto una guerra fra religioni lì, era in atto uno scontro verbale e fisico fra gruppi nazionali diversi. E stamattina sono sbarcati a Pozzallo altri 300 migranti. La capomissione Medici Senza Frontiere a Pozzallo, Chiara Montaldo. Sono 301 in totale, di cui 45 donne e diversi minori. Tantissimi somali e eritrei sono le nazionalità prevalenti. E le condizioni generali, insomma, considerando tutto, sono discrete. Anche per la necessità di fare fronte alle emergenze dopo la fine di Mare Nostrum, Medici Senza Frontiere inizierà da maggio un soccorso in mare con 2 navi. Intanto i centri di prima accoglienza sono al collasso. Quello di Pozzallo, ieri sera, conteneva 400 persone a fronte di una capienza di appena 200. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E nella notte tra ieri e oggi, un peschereccio di Mazara del Vallo, con a bordo 7 marinai, 3 siciliani e 4 tunisini, è stato sequestrato da miliziani libici in acque internazionali a largo di Misurata. L'equipaggio dell'airone, così si chiama il peschereccio, sarebbe però riuscito a immobilizzare gli aggressori. L'imbarcazione poi raggiunta dalla Marina Militare Italiana ne ha assunto il controllo, ha invertito la rotta verso le acque italiane e dovrebbe arrivare domani a Mazara del Vallo. Sentiamo Giovanni Tumbiolo, presidente del distretto pesca di Mazara del Vallo. Il peschereccio sta facendo ritorno a Mazara del Vallo, c'è un ferito a bordo, ma adesso le modalità come questo si è ferito ancora sono tutte da chiarire. Sembra che siano dei militari, però bisogna capire di quali milizie erano, perché è un rimorchiatore che li ha abbordati, ma ancora i pescatori non lo sanno, non è che gli hanno chiesto il tesserino militare, quelli sono andati con le armi, gli hanno sequestrato tutti i documenti, li hanno presi e poi sono riusciti a divincolarsi e a scappare con un uomo a bordo che è stato preso ovviamente sotto tutela dall'autorità militare italiana. E ora la cronaca con il padre fuggito martedì scorso con il figlio di 15 giorni che è stato fermato in Spagna. La polizia spagnola lo ha arrestato, lui si chiama Enzo Costanza, padre torinese che martedì è fuggito col figlio neonato trovato oggi ad Albacete in Spagna. Al termine di un lungo interrogatorio l'uomo è stato dichiarato in stato di detenzione dalla polizia spagnola e accusato di sottrazione di minore, il bimbo comunque è in buone condizioni. E ora parliamo di occupazione. È stata firmata l'intesa alla Fiat per il nuovo sistema di definizione dei salari che prevede anche un bonus in base agli obiettivi per i dipendenti. Contraria però la FIOM e continua invece la protesta intanto dei lavoratori Whirlpool. La legalità si combatte non con l'esercito, si combatte con il lavoro e ce lo stanno togliendo. Così il segretario FIOM di Caserta Massimiliano Guglielmi, dopo l'annuncio shock del colosso americano Whirlpool Indesit di chiudere lo stabilimento di Carinaro in provincia di Caserta con oltre 800 lavoratori che oggi hanno bloccato per protesta una superstrada. Assemblee e scioperi anche nei siti produttivi marchigiani della Whirlpool, che lo scorso ottobre ha acquisito Indesit Company. Il nuovo piano industriale prevede infatti la chiusura dell'impianto di Albacina, in provincia di Ancona, per accorpare la produzione nel vicino stabilimento di Melano, destinato a diventare, secondo l'azienda, la più grande fabbrica di piani cottura in Europa. Whirlpool punta a 500 milioni di investimenti sul piano Italia, ma è drammatico il numero degli esuberi, 1.335, quasi 400 in più rispetto ai 940 del piano Italia della vecchia Indesit. Insorgono i sindacati. E anche il governo esprime forte contrarietà al piano, annunciando l'inizio di un confronto per salvaguardare i posti di lavoro. Sindacati Uniti, invece, con l'eccezione della CGIL, nel sottoscrivere con Fiat Chrysler l'intesa per l'adozione del nuovo sistema retributivo presentato da Sergio Marchionne, secondo cui 48.000 dipendenti di FCA parteciperanno al risultato del gruppo e avranno dei premi legati all'andamento dell'azienda. Marchionne cancella il ruolo del sindacato riducendolo a spettatore notarile, dichiara il leader FIOM Landini, così invece la numero uno della CISL, Anna Maria Furlan. Questo significa davvero rendere partecipe il lavoratore dei raggiungimenti, degli obiettivi dell'azienda da protagonista. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in chiusura parliamo di calcio. Milano, a pochi giorni dall'Expo, l'evento che la mette al centro della scena mondiale, è anche la vigilia di un derby calcistico che mai così in basso le classifiche. Noi eravamo in 100.000 allo stadio quel dì. Di sicuro questa domenica non saranno in 100.000 per il derby, e non solo perché così tanti a San Siro non ci stanno più, ma anche perché questa nuova sfida capita in uno dei momenti più bui del calcio milanese, in una città che rialza la testa coi suoi nuovi grattacieli, con l'Expo alle porte. Inter e Milan sono ai minimi storici. Bisogna tornare al 41-42, al 57-58 per trovarle così in basso, così depresse, tra contestazioni, allenatori in crisi e nuovi padroni che vengono dall'est per ridare ossigeno alle casse delle vecchie dinastie milanesi. Una volta Milan e Inter erano lo specchio del benessere della città. Negli anni del boom spiccavano il Milan di Rocco e l'Inter di Herrera. Negli 80, quelli della Milano da bere, San Siro era il Bengodi del calcio. Ora che si dovrebbe ricominciare a sognare, entrambe le società rischiano l'anno prossimo di restare fuori dall'Europa. Non è mai successo. Qualcuno a San Siro riaccenda le luci. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontano. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Molto bene, quindi questo è il riassunto della giornata. Vedo un messaggio di un ascoltatore che dice: ma i 5 Stelle possono vincere le prossime elezioni? Vedo e prevedo, ma solo fino a un certo punto. Insomma, se si dovesse dire attualmente, secondo i sondaggi, proprio vincere e diventare il partito di maggioranza, io personalmente non credo, stando ai numeri, ai sondaggi, non ad altro. Però chissà mai che non ci possano essere sorprese. Poi dipende anche da quando ci saranno queste elezioni. Chiederemo magari tra poco anche al nostro politologo, potrebbe essere una domanda per lui, se non mi sfugge tra i tanti messaggi che arrivano. Poi vedo, a proposito di politica, anche sulla pagina Facebook di Effetto Note, quindi potete mandarli gli sms al 349-238-6666 oppure le vostre riflessioni mettetele sulla pagina Facebook di Effetto Note. A proposito, per esempio, di questo retromarcia sul Senato e elettivo di Renzi, di cui parleremo tra poco. Stefano dice: in pratica ha ammesso apertamente che ci prendono in giro con bozze di riforme messe su solo per far passare il tempo. Non ci ha pensato, è tutto voluto esattamente così. Cristiano dice: se deve esistere un Senato è giusto che sia elettivo e non la patacca abominevole che passa per riforma a ridurre i seggi. Invece è più o meno la stessa identica consorteria mal mascherata. Con i messaggi continuo dopo. C'è anche un aggiornamento su una notizia che ha anche molto cuore dentro. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. The future is not a gift, it's an achievement. Visto che è un monumento, quello di Renzi, in inglese, che il futuro non è un regalo ma una conquista, l'ammonimento va ripetuto perché magari non è abbastanza efficace. Adesso invece vi ripeto tra poco le notizie più importanti del giorno, visto che qualcuno a volte non è puntuale qui alle 21, effetto notte, accende magari la radio più tardi. Tra pochi istanti poi ci colleghiamo con gli Stati Uniti. Vi voglio dare questo aggiornamento di poco fa. Sapete che è stato ritrovato il padre in fuga col bambino di 15 giorni, col figlio di 15 giorni, è stato ritrovato in Spagna, il bambino sta bene, lui è stato arrestato per sottrazione di minore, la mamma è partita alla volta di Albacete in Spagna per riprendersi il bambino e dice: perdono mio marito per quello che ha fatto, è un buon padre, ha trattato bene nostro figlio. Cuore delle donne, incredibile. Ma quali sono anche le altre notizie? Il vertice Obama-Renzi alla Casa Bianca, un asse sulla crescita, il presidente americano dice grande energia quella di Renzi, è sulla strada giusta e Renzi dice la crescita americana è il nostro modello. E poi la bancarotta greca che fa paura, borsa in rosso, lo spread sale, Milano a meno 2,40%. Senato elettivo, a proposito di politica, ritorna a Leggia questo Senato elettivo perché Renzi si dice possibilista e la minoranza PD gli chiede di scoprire le carte, lui dice sì a un confronto sul Senato, ma l'Italicum non cambia. Vi dicevo che è stato ritrovato e arrestato in Spagna il padre in fuga col bambino. È stato sequestrato un peschereccio tra la notte e questa mattina da parte di libici, un peschereccio italiano, però si sono ribellati, l'equipaggio si è ribellato e quindi dovrebbe raggiungere Mazara del Vallo tra stanotte e domani mattina. Poi c'è un accordo della Fiat Chrysler con i sindacati sul nuovo sistema retributivo, anche se la FIOM dice che in realtà è una presa in giro. Ex braccio destro di Saddam è stato ucciso in Iraq mentre combatteva con l'ISIS. E poi direi adesso di collegarci con gli Stati Uniti. Con il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dall'America. Ciao Marco. Ciao, come stai? Ma sentiamo come stava Renzi. Renzi, che cosa ha fatto? Prendiamolo un po' come un aperitivo di questa nostra chiacchierata. Anche per questo Expo sarà una grande occasione. Mi sono anticipato portando qualche bottiglia di vino a Barack, che so essere un grande esperto. Io ricordo, I remember an interview with an Italian journalist when he was candidate about Tuscan wine. I remember very well a very important interview about it. Ma credo che sia molto importante per noi, indipendentemente dalle battute sul vino e sul cibo, fare dell'Expo una grande occasione per la qualità della vita, per il lifestyle e anche per dichiarare guerra alla povertà. Insomma, lui ha portato il vino intanto, questo è un buon segno, Marco Valsania, però poi ci sono stati tanti altri argomenti naturalmente, no? Ha detto gli Stati Uniti sono il nostro modello di crescita, hanno parlato di Libia, hanno parlato di Grecia, Obama a sua volta ha fatto i complimenti a Renzi perché dice sulla strada giusta. Sì, sicuramente diciamo ci sono stati momenti di maggior levità, come ricordavi, quello sul vino sicuramente, con la coda diciamo sull'Expo, in cui tra l'altro Obama ha promesso, si è impegnato, se così possiamo dire, a una partecipazione nutrita degli Stati Uniti all'Expo di Milano, ma poi si sono toccati i temi pesanti, quelli difficili. La Libia dove Obama ha confermato, ha riaffermato e rafforzato una cooperazione con l'Italia e gli altri alleati per cercare una difficile soluzione alla grave crisi libica senza facili formule. Ha ricordato che occorre arrivare a un governo, spingere per un governo di unità in Libia, un governo unitario, un governo che sia il risultato di accordi fra le tribù, fra le fazioni, e che quindi questo percorso si dovrà fare, dovrà essere incoraggiato, ma non è sicuramente un percorso facile. Intanto occorrerà tenere alta la guardia contro il rischio terrorismo. Libia uno dei temi caldi, l'altro grande tema caldo sicuramente l'economia, dove c'è stata una sintonia sicuramente di vedute, un'insistenza sulla crescita. Obama ha negato, davanti a una domanda, che di essere sempre solo critico nei confronti della Germania e della sua nella sua insistenza sull'austerità e alla lotta all'inflazione, ma ha comunque riaffermato la propria strategia di politica economica espansiva, di rafforzamento di investimento nella crescita, che pur tenendo conto delle costrizioni, delle restrizioni di budget, però punta sulla crescita, sullo stimolo all'economia, anche come soluzione ai problemi di bilancio. Un elemento di fondo su cui si è trovato in sintonia decisamente con Renzi e sul quale ci sono stati anche questi scambi che ricordavi di complimenti reciproci con Renzi, che appunto ha ricordato come quello americano sia a questo punto, l'America di Obama sia a questo punto un modello che cresce e riduce la disoccupazione, mentre per il momento l'Europa riduce l'occupazione e diminuisce la crescita. A questo proposito, Marco, scusa quindi, se ti interrompo, vedo un messaggio di un ascoltatore al 349-238-6666 che dice: Whirlpool, due punti, il modello di crescita americano decantato da Matteo Renzi applicato in Italia. Andrea da Bologna, Whirlpool americana, ha comprato Indesit, aveva promesso che non ci sarebbero stati licenziamenti fino, mi pare, al 2018, adesso non ricordo con precisione. Invece si parla di almeno 1300 esuberi, leggevo che gli operai hanno bloccato anche una strada e anche l'arrivo delle merci, giusto così, diciamo un ponte tra Italia e Stati Uniti anche da punti di vista diversi. Certo, sicuramente comunque la strada della crescita, anche quella non è tra le più facili, oggi passa comunque attraverso polemiche, controversie e difficoltà anche di ristrutturazione e di rilancio. Lo stesso Renzi ha ricordato che la strada è comunque quella delle riforme da cui non si può tornare indietro, ha detto, e che sicuramente non sono riforme del tutto indolori, ecco. Senti, vogliamo sentire un ultimo passaggio di Renzi a proposito degli Stati Uniti che sono il modello di crescita. Sulla politica di austerità, io credo che sia importante una cosa molto semplice: dire che dobbiamo tenere in ordine i conti, ma contemporaneamente il modo migliore per vincere la crisi è scommettere sulla crescita. Gli Stati Uniti sono il nostro modello. Questo ha detto Renzi in conclusione. Marco Valsania, c'è qualcosa da aggiungere? Hai fatto un'ottima sintesi, direi, passando da un argomento all'altro. Volevi dire anche tu che il futuro non è un regalo ma è una conquista? Esatto, se vogliamo chiudere con un noto ottimista, questa che unisce Stati Uniti e America, come la frase, diciamo, una citazione di Robert Kennedy scelta da Renzi, il futuro non è un regalo ma una conquista, speriamo che non sia una conquista troppo caro prezzo, forse possiamo dire. Ce lo auguriamo. Che sia non troppo lontana. Mi pare un ottimo auspicio, grazie Marco Valsania da New York. Grazie a voi. Ciao Marco. Ora invece concentriamoci sulle questioni casalinghe italiane, facciamo un po' un punto della politica della settimana, ci sono un sacco di cose da raccontare e qui coinvolgo il professor Roberto Dalimonte. Buonasera professore. Buonasera. Politologo, editorialista del Sole 24 Ore. Allora, diciamo che è una settimana politica che è iniziata con le spaccature all'interno del centrodestra sulle candidature per le regionali in Puglia, poi per proseguire con le spaccature all'interno del PD sull'Italicum, sino ad arrivare oggi, giornata in cui, tornando a Forza Italia, il consigliere politico di Forza Italia Toti, candidato in Liguria, ha fatto capire indirettamente a Fitto che chi non è d'accordo sulla linea del leader del partito, cioè Berlusconi, può accomodarsi all'uscio. Il tutto movimentato ieri anche dall'uscita del libro intervista Missione Incompiuta, un libro intervista con Romano Prodi, che era tra l'altro ospite qui a Effetto Note. Vogliamo sentire giusto un passaggio su cosa ha detto a proposito del centrosinistra, di quello che era stato il suo progetto dell'Ulivo, da lui fondato, e quello che è oggi. Il mio problema era non quello di avere un partito della nazione, no? ma quello di avere le due coalizioni che si alternano. Quindi il bipolarismo, insomma. Il bipolarismo, un bipolarismo serio, con la possibilità vera di alternanza, quasi che non c'è nessun paese europeo civile che non abbia questo tipo di destino. Cioè, non c'è nessun paese europeo in cui c'è un partito della nazione, no? Un partito unico. Questo non è negli obiettivi. Poi c'è stata anche la questione della Paita, Raffaella Paita, candidata in Liguria per il PD. È stata aperta un'inchiesta a suo carico, indagata per disastro, omicidio colposo, per non aver dato l'allerta da assessora alla protezione civile durante l'alluvione di Genova. Lei ha detto: io non mi sottraggo le mie responsabilità, chiarirò la mia posizione. Ha detto anche questa cosa, ha detto. Rocchi non molla mai e io non mollerò. Rocchi non molla mai, professor Dalimonte. Ma allora torniamo sulle regionali in Puglia. Sin da febbraio, lei naturalmente lo sa, Forza Italia aveva scelto come candidato in Puglia l'oncologo Schitulli, Francesco Schitulli. Nel frattempo però si consumava sempre di più la rottura tra Berlusconi e il suo ex delfino, ora il dissidente numero uno Fitto, che non ha mai digerito il patto del Nazareno, che da tempo chiede un ricambio generazionale, che nella sua Puglia voleva pesare di più. Ma Schitulli ha fatto, diciamo, l'errore dal punto di vista di Berlusconi di chiedere nelle liste di Forza Italia più fittiani. Allora a quel punto Berlusconi ha cambiato cavallo, ha scaricato Schitulli e ha candidato ufficialmente l'ex ministra Adriana Poli Bortone, incassando anche il sostegno della Lega. Ma cosa è successo? Si è spaccato il centrodestra, perché Fratelli d'Italia, con il presidente Giorgia Meloni, ha chiesto alla Poli Bortone, che è compagna di partito, quindi dentro Fratelli d'Italia, di fare un passo indietro. Però nello stesso tempo Fratelli d'Italia appoggia il candidato di Forza Italia Toti, consigliere politico di Forza Italia, in Liguria. Mi spiega un po' tutte queste contraddizioni, che magari a lei sono chiarissime, immagino, naturalmente, no? No, non sono affatto chiarissime, no. Ci speravo. No, assolutamente. È una situazione molto confusa, perché stiamo vivendo una fase di transizione all'interno del centrodestra. Lei ha citato le contraddizioni relative a Fratelli d'Italia, ma anche nel caso del nuovo centrodestra, che o di area popolare, no? Certo. Che è alleata nel governo nazionale con Renzi, però vediamo che nei territori, nelle regioni, ha alleanze diversificate, quindi è proprio caratteristico di una fase di transizione questo insieme di contraddizioni, anche perché si intersecano diversi problemi anche di carattere generazionale. Nel caso dell'alleanza Fitto Meloni mi sembra molto chiaro questo. Poli Bortone appartiene a un'altra generazione, a un altro progetto, a un altro schema. Invece, per quanto riguarda la legge elettorale, cioè l'Italicum, è diventato il pomo della discordia sia tra governo e opposizioni, ma anche proprio all'interno del partito di maggioranza, che è il PD, no? Questa settimana si è riunita di nuovo, c'è stata una nuova riunione del PD dove Renzi cercava di creare, di imporre, come vogliamo dire, una linea unitaria, quindi quella della maggioranza, la disciplina di partito sull'Italicum, ha detto non si modifica, mentre la minoranza PD aveva chiesto alcune modifiche sull'Italicum. Non ci sono state, e il gruppo della minoranza PD, uno dei gruppi che è quello che fa capo ad area riformista, di cui è leader Roberto Speranza, non ha proprio votato, quindi è uscito durante il voto, e Roberto Speranza si è addirittura dimesso da capogruppo del PD alla Camera. Oggi però viene fuori questa mediazione, possibilità di Renzi, che dice: ma in realtà io sul Senato elettivo non sono contrario a ritornare all'idea di Senato elettivo. Era stato Errani, ex presidente della regione Emilia Romagna, che voleva un Senato delle regioni, dei rappresentanti territoriali, ma io sono aperto. Su com'è, una marcia indietro, professore, o come dicono i maligni, è uno scambio tra mediazione sull'Italicum con la minoranza, io vi do il Senato elettivo, voi però mi votate sull'Italicum? Senta, io ancora non ci credo a queste affermazioni. Sono state riportate, se non sbaglio, da Repubblica. Sì. Le confesso, le trovo molto curiose. Non ci credo. Voglio prima vedere i fatti, sentire Renzi dirlo apertamente prima di commentare. E poi il Senato elettivo. Il Senato elettivo può dire tante cose, quindi andiamo a vedere che tipo di Senato elettivo. Quindi preferisco non commentare, perché ancora non ci credo. Secondo me è stata creata una notizia dove una vera notizia non c'è. Dice che non è una vera notizia, ma secondo lei dell'Italicum c'è qualcosa che si potrebbe modificare? Perché sembra che sia la minoranza dei PD sia le opposizioni, a entrambi insomma, che potrebbero creare un asse, non vada giù la questione della modalità di elezione, nel senso che il fatto che non le preferenze solo in parte si ritorna a costituire quindi un Parlamento di nominati, non si può proprio toccare nulla. La questione delle preferenze è un falso problema, perché alla fine dei conti il 50% degli eletti sarà eletto col voto di preferenza. A parte che a me le preferenze non piacciono, io preferisco liste bloccate, perché sulle preferenze si fa tanta retorica, in realtà le preferenze sono peggiori come strumento nel nostro paese delle liste bloccate. Quindi, ma ho messo da parte questa mia preferenza, che non è legata così semplicemente a un'opinione, è legata al fatto che noi che studiamo queste cose, a differenza di altri che invece ragionano per Stato, vediamo come è stato utilizzato e come viene utilizzato il voto di preferenza nel nostro paese, non abbiamo una buona opinione di questo strumento. Ma a parte questo, il 50% degli eletti sarà eletto con il voto di preferenza, la grande maggioranza degli eletti del partito che andrà al governo sarà eletto col voto di preferenza. Questo mix, voto di preferenza, liste bloccate, esiste in tantissimi altri paesi. Questo è un falso problema, perché in realtà il vero problema è che la minoranza del PD vuole ostacolare Renzi per non dare della vinta su questo argomento importante, che è la legge elettorale con annessa riforma costituzionale. Per è un dargli problema la interno. Ho capito, è un problema interno al PD, ed è un peccato, perché il PD in questo momento avrebbe la possibilità di tranquillamente approvare la riforma elettorale. A mio avviso Renzi ha comunque i voti per approvare alla Camera la riforma elettorale. Professore, sì, mi scusi, abbiamo ancora un minuto, ci sono alcuni messaggi che vorrei sottoporle tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Lidia dice, per esempio, ma lei ha detto che non vuol commentare perché dice che la notizia ancora non è fondata. Lidia dice, ma l'Italicum vale solo per la Camera e per il Senato, se elettivo bisognerebbe fare qualcosa. No, l'Italicum vale soltanto per la Camera, e questo è stato un compromesso che Renzi ha dovuto accettare. E quindi, perché in realtà questa legge elettorale funziona veramente, dobbiamo aspettare la riforma costituzionale e quindi il superamento del Senato elettivo. Solo allora in realtà l'Italicum potrà essere utilizzato. Professore, le leggo una notizia che è arrivata pochi momenti fa. È morto Renato Altissimo, ex segretario del Partito Liberale Italiano, più volte ministro, è morto poche ore fa a Roma all'ospedale Gemelli dopo una lunga malattia. Ragiono su questa cosa, visto che siamo anche nella politica. L'ultimissima cosa, professor Dalimonte, una ascoltatrice, Ele, dice: minoranze e rotture, basta con i ricatti di Fronda, facciano il loro ennesimo partitucolo. Ecco, mi dica solo, Fitto in Forza Italia, minoranza nel PD, lei ritiene che chi non è d'accordo con la maggioranza di un partito debba uscirne o debba cercare un confronto comunque? Io non amo le scissioni, quindi penso che chi dissente deve restare all'interno del partito e cercare di far prevalere le proprie opinioni all'interno del partito. Io sono un nemico della frammentazione, nemico delle scissioni. Però certo, se ad un certo punto una frangia di un partito, che sia Forza Italia o che sia PD, ritiene di non poter più convivere con la maggioranza, ritiene di non rispettare il principio di maggioranza, allora vale che però, a seconda di quale sarà il sistema elettorale, cioè a seconda che se l'Italicum verrà approvato o meno, cambiano le convenienze. Le decisioni si fanno quando si conoscono bene le regole del gioco. Al momento, secondo me, molti stanno frenando perché ancora non è chiaro se l'Italicum verrà approvato o meno. Cambia molto le cose. Grazie professor Dalimonte, grazie, buon fine settimana. Grazie a voi, anche a lei. Arrivederci. A risentirci, anzi. Scusate per l'audio che non è sempre stato perfetto, naturalmente raggiungendo vari personaggi, esperti, eccetera, in giro per l'Italia, a volte succede così. Direi che possiamo prenderci un pochino di ricreazione, a tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. The future is not a gift, it's an achievement. Sappiatelo, se avete acceso in questo momento la radio, dice Renzi, lì al cospetto di Obama, il futuro non è un regalo, è una conquista. Questa è naturalmente una citazione di Bob Kennedy. Mentre cito tra poco anche i vostri messaggi, tra poco parleremo anche di rivelazioni di un pentito che insomma fanno abbastanza tremare, ma sempre con i pentiti bisogna capirne l'attendibilità, ovviamente. A proposito dei vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito del ventilato, della ventilata possibilità che Renzi possa di nuovo aprire sul Senato elettivo, quindi tornare un po' indietro sulla riforma del Senato, Alberto dice: il succo sta nel livello della classe politica attuale, non abbiamo più statisti del livello di Spadolini, De Gasperi, la politica si è ridotta a teatrino e gossip, e quindi temo che cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. Alessandro dice: ancora credete a Renzi? Poi c'è un ascoltatore molto ironico che dice: la vera notizia è che il bambino di 15 giorni, quello che è stato portato via dal padre e poi ritrovato, dopo 2 giorni ancora 15 giorni, Lorenzo da Venezia. Beh, si dice è fuggito col bambino di 15 giorni, poi adesso ne ha 2 in più, meno male che ne ha solo 2 in più, è stato ritrovato subito. Ecco, diciamo così che questo è il lato positivo. Vi riassumo le notizie velocemente. Il vertice Renzi-Obama, gli Stati Uniti sono un modello per la crescita, dice il Presidente del Consiglio, e c'è condivisione su Libia, Iran, Grecia. La notizia è che ormai il paese è quasi senza liquidità e spaventa i mercati e risale lo spread. Riforme, l'Italicum non si cambia, ribadisce Renzi, ma sul Senato nuovamente elettivo si dice possibilista, così sembra. È morto a Roma Renato Altissimo, ex segretario del Partito Liberale e più volte ministro. L'uomo in fuga col figlio neonato è stato ritrovato in Spagna, entrambi stanno bene, dopo l'interrogatorio è stato arrestato, la moglie ha dichiarato che è un buon padre, che lo perdona. Libia, la Marina sventa un tentato sequestro di un peschereccio di Mazara del Vallo. E invece con Nino Amadore dalla Sicilia. Ciao Nino. Ciao, buonasera a tutti. Parliamo di queste esplosive rivelazioni di un pentito, esplosive se dovessero mai essere avere un riscontro, insomma al momento sono solo dichiarazioni di un pentito. Lui è Carmelo D'Amico, messinese, che depone il processo Stato Mafia, cioè il processo sulla presunta trattativa tra Stato e Mafia per porre fino alla stagione delle bombe dal 92 al 93, quindi per giungere a un accordo tra importanti esponenti delle istituzioni italiane e rappresentanti di Cosa Nostra. L'oggetto ipotizzato di questa presunta trattativa tra Stato e Mafia era la fine della stagione stragista in cambio di un'attenuazione delle misure detentive previste dall'articolo 41 bis, cioè del carcere duro per i boss. Ma che cosa ha detto questo pentito D'Amico, Nino Amadore, così pesante? Oggi ha detto tante cose, oggi deponendo in videoconferenza al processo. Alcune sono cose, diciamo, abbastanza note, che la politica, molte sono abbastanza note. La politica avrebbe cercato Ciancimino per avere un contatto con Totò Riina, che Provenzano sarebbe stato protetto nella sua latitanza, e che ci sarebbe stato, come dire, un interesse nella stagione delle bombe da parte dei servizi della politica per mettere le mani sullo Stato. L'altra cosa che ha aggiunto è che Angelino Alfano e l'ex presidente del Senato Schifani avrebbero avuto i voti della mafia. Però diciamo, lui queste cose le racconta perché gliele hanno riferite in carcere. Lui dice di aver parlato con Nino Rotolo, che è un boss palermitano che è in carcere, e con Vincenzo Galatolo, che è un altro boss palermitano di un quartiere dell'Acqua Santa, che diciamo della famiglia storica che comanda da quelle parti, e che lui sostiene di aver ricevuto da loro queste confidenze. D'Amico è un boss, è stato un capo mafia, ora è pentito di Barcellona Pozzo di Gotto, quindi pronto abbastanza lontano da Palermo. Il fatto che riferisca cose così gravi, insomma, no? Cose così gravi fa riflettere, certamente, però va valutata attentamente questa sua deposizione, perché è anche vero che Barcellona è un paese della provincia di Messina, dell'area tirrenica, che è stato centrale, diciamo, sia nella strategia della tensione mafiosa, quella delle bombe del 92, del 93, sia per la latitanza di Nitto Santapaola, il capomafia catanese, e anche per Bernardo Provenzano. Insomma, quella parte di Sicilia ha contribuito a rafforzare il potere mafioso anche in maniera determinante in alcuni casi. Purtroppo sì. Però, comunque, ancora tutto da verificare, no? Appunto, la attendibilità di questo pentito. Nino Amadore, ti ringrazio dalla Sicilia, salutaci la Sicilia. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Nino, a te, ciao, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. The future is not a gift, it's an achievement. Stavo per interrompere Renzi, mi raccomando, l'ammonimento teniamolo presente del futuro, che non è un regalo, ma una conquista. Stavo dicendo che appunto c'è stato questo incontro tra Renzi e Obama alla Casa Bianca oggi, questo vertice, hanno creato un asse praticamente sulla crescita, si sono fatti complimenti reciprocamente. Obama dice che Renzi è sulla strada giusta, Renzi dice che per la crescita l'America è il nostro modello. E poi la bancarotta della Grecia che fa paura, le borse in rosso, oggi lo spread che sale, Milano a meno 2,40%. Il Senato elettivo torna a queste ipotesi perché Renzi pare lo abbia detto, bisogna ancora verificare se effettivamente c'è un'apertura da parte sua per ritornare al Senato elettivo. La minoranza PD chiede di scoprire le carte. E poi è stato ritrovato e arrestato in Spagna il padre in fuga con il piccolo neonato. Questa mattina ha chiamato la moglie, ha detto che il bambino sta bene, lui è stato arrestato in Spagna per sottrazione di minore, ma la moglie ha detto che lo perdona. E poi l'accordo Fiat Chrysler sindacati sul nuovo sistema retributivo, anche se la FIOM non ci sta. Europa 24 notte. Sarà pubblicato a breve il rapporto annuale dell'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze, che ha sede a Lisbona, un'agenzia decentrata dell'Unione europea che non dà delle direttive ma dà delle informazioni agli Stati membri. Il grande tema del 2015 sono le nuove droghe, così dice Maria Linda Montanari, analista dell'Osservatorio, intervistata da Laura Bettini. Attualmente quello di cui si parla molto sono le nuove droghe, no? E in questo gruppo rientrano diversi tipi di sostanze. Quelle più diffuse sicuramente sono quelle chiamate legal highs, penso in italiano alternative legali, che sono delle sostanze che non sono ancora diventate illegali, sono prodotte spesso in laboratorio, vendute negli smart shop, eccetera. All'osservatorio esiste un sistema di allerta rapido, per cui i paesi hanno degli esperti e delle reti a livello nazionale, per cui in modo veloce comunicano se vengono scoperte delle nuove sostanze. Nel 2014 sono state individuate 101 sostanze in totale. Dall'inizio di questo sistema sono 450 le droghe che sono monitorate dall'osservatorio. Per poi renderle illegali nei vari paesi c'è un percorso piuttosto lungo, dalla valutazione del rischio di queste sostanze, perché naturalmente devono essere il rischio deve essere verificato, più una serie di processi che coinvolge i vari. Praticamente questa rete segnala delle sostanze nuove e dice questa viene utilizzata, sì, come esatto, una droga. Poi esatto, dopo ogni stato vedrà sì, se dopo deve. A livello nostro si fa una valutazione del rischio, dei danni che questa sostanza può aver provocato, se ci sono dei morti, i casi, eccetera. E esiste abbiamo un comitato scientifico che dedica una parte del suo tempo proprio per fare una valutazione del rischio di queste sostanze. Poi c'è un processo abbastanza lungo fino a che la sostanza è messa sotto controllo. Sarà lo Stato però a decidere se diventa fuori legge o no. Sì, esatto, esatto. Un altro tema di cui si parla molto adesso è la cosiddetta regolamentazione e legalizzazione della cannabis, no? Che come si sa è stata regolamentata in alcuni stati degli Stati Uniti e in Uruguay. Però una cosa importante è che c'è una differenza tra decriminalizzazione, regolamentazione e legalizzazione, non sono la stessa cosa, perché in Europa non c'è nessuno Stato che ha legalizzato la cannabis, ci sono dei paesi che hanno decriminalizzato, come il Portogallo, oppure per esempio l'Olanda, che è l'esempio classico, no? Dove tutti dicono perché la cannabis è legale, non è legale in Olanda, è soltanto che nella pratica, no? È tollerata. Noi quello che facciamo è cercare di raccogliere le informazioni e descrivere quello che abbiamo, no? Per cui abbiamo per esempio una base di dati sulla legislazione sulla droga che è aperta al pubblico e nel nostro sito website, dove viene analizzata la legislazione in ogni paese. Dopodiché noi non abbiamo nessuna posizione da dare né nessuna indicazione o raccomandazione. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ed è tempo di sapere se questo fine settimana ci fa dispetto per quanto riguarda il meteo oppure no. Lo chiediamo a Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Paolo? Buonasera, buonasera Roberta, buonasera a tutti. Ma guarda, dipende dalla zona dell'Italia, c'è chi se la passerà bene e chi meno, diciamo così. Cominciamo dall'aspetto più semplice: il sud Italia avrà condizioni meteo buone sia sabato che domenica, quindi per il sud, a parte qualche nuvola di passaggio, non sono previste piogge, le temperature rimarranno su valori più che gradevoli, anche al di sopra delle medie del periodo. Quindi le regioni meridionali vedranno un weekend tutto sommato buono. Anche nel centro Italia la situazione non sarà così malvagia, anche se Toscana, Umbria, Marche nella giornata di domani, soprattutto tra pomeriggio e sera, vedranno qualche acquazzone, qualche temporale. Domenica invece tutto sommato il tempo rimarrà bello veramente dappertutto nel centro Italia. La zona più sfortunata è il nord, perché avrà a che fare con una perturbazione in arrivo dal nord Europa che porterà anche proprio dei temporali, probabilmente i primi veri temporali di stagione, che interesseranno domani tra la tarda mattinata e il pomeriggio il nord-est, per poi estendersi rapidamente tra pomeriggio e sera anche al nord-ovest. Quindi bene o male tutto il nord vedrà il passaggio di questi temporali, peraltro accompagnati anche da raffiche di vento abbastanza sostenute e una diminuzione piuttosto marcata delle temperature, quindi per il nord Italia. E se no sai che noia sempre il sole. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Ciao Paolo, a dopo.